guardarti più, con un nodo in gola che non va più giù. Tutta quella gente l'hai ingannata tu, chi ci sei infilato non ne esce più. Guardaci tu, perché proprio non so capirci qualcosa, un giorno ci riuscirò. Oggi ho detto sì, domani no, no. Altro giorno, altra faccia, altro poi vi dirò. Sappi da un po' che ho scoperto il tuo gioco, sappi lo sai, ormai manca poco. Salva qualcosa da stringere dopo, la città è presa, verrà messa a fuoco. Mosse sporche, mai come le tue, scegliti il premio of the most cruel. Li vuoi ignoranti per avere il controllo, è inutile che neghi, ormai non ti mollo. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore. Non chiudi quella porta e poi nascondi ogni prova che ti schiaccia, diffondi false informazioni, poi ancora mezze insinuazioni. Dici, non dici e perdi tempo, ma intanto cresce il malcontento di chi lo subisce oramai da anni, e poi finisce solo tra scleri a panni, a non poterne più dei tuoi inganni. Non ci vorrei stare ora nei tuoi panni. Dimmi qual è stata la tua missione, ora che è finita la trasmissione. Niente più saluto, titoli di coda, è solo una poltrona che rimane vuota. Oggi la mia musica è una sola nota, quella che accompagna questa brutta, brutta storia. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore. Stai easy con me, non vedi come sbotto a tutto quello che hai per te, agli altri gliel'hai tolto. Urla soffocate dall'ufficio più corrotto. Oggi torna il sole, l'incantesimo si è rotto. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore. È inutile che guardi il sole, è inutile che cerchi altrove, è inutile che spremi il cuore, tanto qui non c'è più amore.